Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Nella puntata di ieri abbiamo parlato di informatizzazione della pubblica amministrazione, chiedendoci in sostanza se e come fosse possibile dotarsi di una singola, chiamiamola smart card, con tutte le informazioni che ci riguardano, dalle cartelle cliniche a quelle esattoriali, non sia mai però, dalla carta d'identità alla patente, insomma. È venuto fuori che si potrebbe fare, ma che le pubbliche amministrazioni, anche quelle che si sono informatizzate, non parlano, per così dire, lo stesso linguaggio, e questo blocca lo sviluppo di una maggiore integrazione. Peggio dei carrozzoni pubblici statali, a quanto pare, fanno solo le amministrazioni locali, anche se naturalmente la situazione è molto a macchia di leopardo, con eccezioni positive, come per esempio quella di Torino. A capo della locale azienda informatica c'è Stefano De Capitani, già nostro ospite ieri. Buonasera De Capitani. Buonasera. Dunque, De Capitani è direttore generale di CSI Piemonte, azienda informatica pubblica con 1200 dipendenti e, viva Dio, il bilancio inattivo. Ha già fatto un mestiere simile in Friuli Venezia Giulia e nel frattempo ha anche fatto il vicepresidente di IBM. Insomma, ha una bella esperienza in campo informatico e anche di rapporti con la pubblica amministrazione. Sotto la guida di De Capitani, CSI Piemonte ha informatizzato quasi tutto quello che si poteva informatizzare. Allora, De Capitani, tanto bravi, ma ci racconti un po' di queste procedure. Io ho un elenco qui: prenotazione delle visite specialistiche online via smartphone, pagamento del ticket online, Torino Facile, Cruscotto, fiscalità locale. Ecco, ci vuole dire quali secondo lei sono le applicazioni più importanti e soprattutto che cosa deve avere, ecco, forse questa è la domanda, un'applicazione per essere veramente utile e importante? Qual è il segreto, diciamo così? Ma guardi, intanto direi una cosa importante: il CSI è un consorzio che raggruppa tutta la pubblica amministrazione piemontese, quindi noi riusciamo a fare un lavoro di sistema mettendo in collaborazione le banche dati, i processi di tutti gli enti della regione. Era un po' quel problema di cui parlavamo, esatto, ieri, e che dicevamo essere all'origine della difficoltà di aumentare il livello di informatizzazione. Esattamente. Allora, quello che noi stiamo facendo è mettere a disposizione del cittadino, della persona o dell'imprenditore, del lavoratore autonomo, un punto di accesso che è su un portale internet, sul telefonino, con le applicazioni mobile, attraverso i call center, un unico punto di accesso ai servizi digitali di tutti gli enti del suo territorio. Quindi il nostro obiettivo è che la persona trovi, accedendo al nostro portale Piemonte Facile, contemporaneamente abbia la possibilità di fare la pratica col comune perché vuole il certificato dell'anagrafe, la pratica della licenza edilizia per la propria casa, oppure se è un geometra per conto di un cliente, prenotare una prestazione sanitaria presso l'ospedale, pagare il ticket, se deve richiedere una sovvenzione per la scuola, per il buono della scuola del figlio, con la regione fa la stessa cosa, quindi evitare proprio il fatto che il cittadino debba girare fisicamente, sì, tra diversi uffici o virtualmente tra diversi portali, tra diversi sistemi informativi, ognuno diverso dall'altro. Ecco, mi lasci dire una cosa, magari mi sbaglio, mi correggerà, però probabilmente più di queste macchine si mettono a punto e più è facile fare quelle dopo, perché, come dire, è sempre più facile poi reperire e trovare informazioni già organizzate. Assolutamente sì, e poi il fenomeno molto interessante è che il cittadino contribuisce, perché cominciando a prendere dimestichezza con questi servizi digitali è lui stesso che offre degli spunti e delle idee. La domanda che mi faceva, sì, prima la vorrei riprendere, perché mi ha fatto una domanda molto importante: qual è la cosa principale che curiamo? Direi la semplicità, cioè oggi è fondamentale che questi servizi non parlino il linguaggio dei tecnici, ma parlino il linguaggio del cittadino che ha bisogno di questi servizi, perché questo avvicina, facilita il rapporto con l'ente pubblico, con la pubblica amministrazione, e quindi questo è un po' il nostro impegno principale. Insomma, il plug and play in qualche modo, esatto, portato a livello della pubblica amministrazione. Ecco, ci sono alcune delle attività che avete fatto che mi hanno abbastanza colpito. Uno di questi è espletamento veloce pratiche cassa integrazione. In un momento come questo fa la differenza. Sì, abbiamo lavorato per l'assessorato al lavoro della regione e poi per tutte le province che gestiscono insieme alla regione il sistema lavoro, proprio in questo momento per fornire un supporto a chi ha bisogno di questo tipo di intervento, in modo tale da renderlo veloce e efficace. Ma abbiamo fatto di più: la regione Piemonte è stata la prima regione a utilizzare i dati storici, diciamo, dell'andamento del lavoro per fare previsioni e quindi per capire come si muoverà il mercato del lavoro nei prossimi mesi. mesi e quindi conseguentemente fare degli interventi, delle cosiddette politiche attive, quindi la formazione, ad esempio la riqualificazione, in modo mirato per cercare di ridurre l'effetto negativo della disoccupazione. Ecco, a proposito di previsioni, per esempio un'altra che avete fatto è questa banca dati, diciamo, degli incidenti stradali, che naturalmente nel momento in cui vengono rilevati e portati immediatamente nella dimensione informatica consentono anche per esempio di fare previsioni, di capire quali sono i punti più critici immediatamente dal punto di vista della circolazione e così via. Senta, però, prima di chiudere c'è un'altra cosa che le voglio domandare. Si fa un gran parlare di open data, dati aperti, cioè in pratica un comune tutto quello che raccoglie in termini di dati, naturalmente fatte salve le questioni legate alla privacy, le mette sul web. Ecco, c'è chi dice non serve a niente, c'è chi dice è la panacea. Io tendo a pensare che possano essere utilizzati bene questi dati. Come facciamo a far sì che vengano utilizzati bene? Che cosa ci si potrebbe fare? Ma direi che oggi è un argomento molto caldo, fa parte dei temi principali dell'agenda digitale. Io direi che gli scopi sono fondamentalmente due. Uno, trasparenza, quindi la pubblica amministrazione mette a disposizione le proprie informazioni e quindi questo è il massimo, diciamo, della trasparenza. Certo. Ma la cosa interessante è che queste informazioni possono essere utilizzate da imprese, da imprenditori, per costruire dei servizi da offrire poi ai cittadini e alle imprese, a quel punto naturalmente a pagamento, quindi si utilizza una risorsa pubblica di fatto gratuita che oggi giace in modo inutilizzato all'interno degli archivi pubblici per farla diventare materia prima per fornire un servizio. E quindi questo è un modo concreto per dimostrare come l'agenda digitale, i temi del digitale possono contribuire alla crescita e allo sviluppo economico. Insomma, e poi ci vorrà lo Zuckerberg di turno che si inventa qualcosa, ma qui appunto entriamo nella dimensione della creatività imprenditoriale in un certo senso. Grazie Stefano De Capitani. Grazie a lei. E con questo è davvero tutto, ci risentiamo domani. Buona serata.